Già, ma la volta che lo apri la garanzia la perde. E vabbè, capirà tutto, l'ha già visto. Non c'era nessuna cosa. Ho fatto piano piano a svittarlo per non intaccarmi le viti. Ah, comunque il telefono l'ho aperto, l'ho già pronto a piazzare il display nuovo. Mi aggazzino, mamma mia. Sono i coperchi, quelli che hanno il mio adesivo, che sono sinceramente di balle. Per secondo come lo scaldi, secondo come lo tiri, lo lascio la vernice. Allora, via, per carità. Lo mando in altra spazio. Cosa c'è qua a cusci? Guarda, te l'ho mandato anche tu. Se non va a prova di sciogga, poi chissà la musica. Quindi anche il mio sarà uno degli ultimi che hanno fatto. Sicuramente così. Bisogna vedere adesso qua le trimmer, bisogna toccare per sbloccare la M, lo sai che sia troppo basso. Ciao Natali, mania tua. Io sono qui che stavo aggiustando una lampada, poi non ci sono riuscito e ce l'ho messa da parte. Lunedì mi compro il portalampada nuovo, perché quello non serve. Invece che la lampada di Aladino, la lampada di Natalino. Ok, proprio così. Pure il filo li cambio. Lo faccio nuovo nuovo. Questo qua non si è mai contattato. Aspetta un secondo. Claudio, ci sei? Claudio. Sarà a portare il cane, lui. Se fa la portura la riga Lugani. E non mi sa di più come c'è tempo, c'è di mezz'ora, un'ora. Vabbè, ma allora sta gira che ti rigira, la volta che lui sa che fa i suoi bisogni, se ne rientra, non so come farla, poi ormai è anziana, lui non ce la fa più, se lo fate giocare al palazzo, arriva a casa che è morta, poi più morta che viva. Allora, Luna è una femmina e la pipì la fa tutta in una volta, invece il maschio la fa a spruzzate, deve circondare tutto il territorio, odora e piscia, odora e piscia. La femmina l'ha fatto per una volta e ha fatto lui. Anch'io perché sono già le 8, mi sa che adesso vado, mi faccio da mangiare e poi mi sta già ascoltando, quindi è vicino a me. Come ho detto, faccio da mangiare, si è già girato. E faccio da mangiare e poi lo porto giù. È finita la giornata per me. Domani devo andare presto alle poste che mi devo ritirare la raccomandata. Che sono... L'ispettorato del lavoro ha già rimandato 4 volte una riunione, 4 volte già. Gianni! Ehi, dimmi! Ti raccomando di prenderla! Cosa? Non ho capito. Di prendere che cosa? La raccomandata? Ti raccomando di prendere la raccomandata. La devo prendere per forza, Masci, perché è roba di lavoro, quindi la devo prendere per forza. Ma una rottura di palle che venga ogni volta il postino, siamo a casa, e invece di lasciarti l'avviso dovrebbe chiamarti, no? Suona il campanello e tu scendi di giù, invece ti lascia l'avviso, secondo che postino hai, ti dice guardi, la metto io la firma, la metto dentro la busta delle lettere, va bene. Secondo che postino hai, ti mette l'avviso e devi andare a ritirare le poste, ogni volta devi fare la fila, e questa è una rottura veramente. Ho capito. infatti c'è rimasto che avevo volume alto, stavo facendo altro, stavo piazzando un'antenna. E che antenna stai piazzando? Un discone. Ah, ma per le altre bande? Sì, no, è per fare radioascolto. Ho capito. Acciugavi... Che cosa? Non lo so, sempre, non bisogna sempre prendere il coso, il numero. Ma c'è la fila fuori, ecco, tu non lo sai come sta funzionando adesso, c'è la fila fuori, e fanno entrare a due a due. È così adesso, capito? È così. Bisogna aspettare che tutto il tuo, ma già vado presto io, vado prima di fare tutto, faccio colazione e poi vado. E così almeno vado da presto e me lo sbrigo in fretta, se no mi tocca a te tutto il giorno di buttare. E ogni volta per dirti che rimandano la riunione ti mandano la raccomandata, capito? Cioè ne avrò ricevuto 4 o 5 già le raccomandate, c'ho la collezione. Sono qua, dimmi. Chi c'è dopo te? C'era Natalino, c'era anche lo riserva, non lo so che fine hanno fatto. Ah, ho capito, non c'è nessun altro. So pure io, ma sto mettendo un telefono. Ecco. Ciao Roberto, avanti. Ho chiamato, nessuno mi ha risposto. Sì, ho detto avanti. Non ho sentito. Scusa, lasciami il telefono, scusate un attimo. Subito. Ma perché c'è le 8, Robe? All'ora di mangiare. Mangiate tu. Oh, alfa 21, mangiate. No, non ho mangiato, mangio verso le 22. Un casino, E cosa stai facendo, i cumi? No, stavo facendo altro, mi ha preso tutto il tempo, sono tornato alle 2:30, a 3, poi mi sono mangiato una cosetta per pranzo, e poi sono entrato un po' e poi devo piazzare questa antenna. Sai gli ex che abbiamo fatto con Giulio stasera, ci siamo divertiti un bel. Scusate un attimino, ci sentiamo tra poco, dai, devo fare cosa, ciao ciao. Ciao. Ha fatto l'entrata delle riunioni. vabbè, cosa stavi dicendo? Ha detto che abbiamo fatto un bel 10 con Giulio. Ah, lo so, io purtroppo ero in calcio, praticamente ho fatto solo Spagna, due con la Spagna. No, stasera mi sto dicendo, tu eri su 10, quando io mi sono spostato, ho detto vado un attimino, faccio queste greche, sono andato sul 20 con Giulio e abbiamo fatto un bel 10. Uno dopo l'altro, mi entrava da Torino, tutta quella zona di Torino abbiamo fatto. Ho capito. Io pensavo che dovevi fare altro, no, dovevi andare a fare gli ex. No, te l'ho detto, faccio un attimino di pesce greca. Pesce greca vuol dire che stai andando in un altro canale, dai, oppure che ti stai spostando, dai. Vuol dire su spostamento pesce greca. Beh, fatto sta che ne sono entrati da tutte le parti, dalla Svizzera, da ogni lupo. Sono arrivato in un posto, sono arrivato anche 9:20. Da 9:20 a 9:30. No, non so cosa vuol dire questa greca, però io pensavo che tipo dovevate fare dei controlli, boh, non lo so, che di solito la maggior parte delle volte ti sposti per trovare, non so, un microfono, una radio, per non farlo sapere a tutta la banda TV. solitamente questa Y vuol dire spostarsi di canale, oppure si può dire questa Y che però ti stai spostando, sto facendo questa Y un attimo e torno subito, capito? Già ho capito. E comunque ci siamo divertiti stasera, ho fatto anche le registrazioni. Ah, ho capito, li hai tutti registrati? Non tutti, così a pezzi, dai, a pezzi l'ho registrato per far sentire dove la va. Ah, comunque siamo andati bene, dai. C'era una bella ruota di Torino e dintorni, e poi c'era la Svizzera, e poi c'era anche, se non mi ricordo, la Sicilia, Catania, Messina, eccetera, eccetera. È un bel po' di posti. Ho capito. Allora è bello quando fai tutti quei ex, anche Nord Italia, così non hai problema, ho sentito alcuni che infatti non so con qualche lingua è meglio Nord Italia, vabbè, per me non è un problema. Ma infatti. Niente, c'era anche uno che modulava da una montagna, non so dove, vicino a Torino, però lui ha detto che era sulle montagne. Ce ne sono stati tanti che sono entrati, solo che poi hanno cominciato a fischiare, a decalare di accenti, a fare casino per non farti sentire le persone, capito? Ah, ho capito, e anche prima invece che fischiare stavano mettendo portante quando stavo facendo un question con la Spagna. Vabbè, c'è gente che si diverte così, cosa vuoi fare? Ma il mio viso che sta tumorando, gli si agisce, poi ha... Comunque... La 48, se senti qualcuno, lo sto vendendo. Ah, la 48, ma è una cosa modificata o no? Sì, quello modificato, con tutte le modifiche e tutto quanto. Adesso chiedo, perché ho sentito qualcuno che lo voleva, che entra poco qui, fa altri canali, e lo posso chiedere. Chi è avanti? C'è qualcuno sottofondo chiamando, ma lo sento basso. E così ti vedi anche il coso, la lamparamba, il gas, il funzione. Cosa non ho capito? Che te la mando, così vedi anche il garage in funzione. Eia, manda. Vai, tranquillo, a tu, non c'è problema. Io ti ho chiamato, ma non rispondevi. Eia, dai, ciao Antonio, ci sentiamo magari più tardi, dai. Ciao Antonio, mi hanno ascoltato? Sì, mi chiamo Riccardo, Alfa 21. Ma quindi c'era anche Luca? Sì, ci sono pure io, mi senti? E Luca? Sì, l'ho sentito. Mi senti? Sì, disegno. Mi segni? Sì, disegno. Ok, dai, anche io ti segno. E poi non c'è nessun altro, siamo in tre. Ecco qualcuno nel natalino, c'è. Ah, c'è pure Natalina. Pure Natalina, Natalina, vuoi? Natalina! Gianni! Sono qua, stavo mandando quella roba. Cos'è? Un film? C'è 4 minuti e 40. No, non è un film. È una registrazione della propagazione. Io non mi sento, se sente Giulio e cose, però io mi sa che non mi sento, non me lo dico, nell'altro filmato ci sono anch'io, però anche lì ci sono, però non mi sono registrato da quando modulavo lì. Vabbè, adesso sto scaricando, forse anche troppo grande. Se lo scarica, che così vedi il mio apparato acceso, va per bene. Ma è l'eco? L'eco? Africa, Alexi Saturn, eccoci. Galaxy Saturn, ecco. Ma è vero, se non sbaglio, a quanto ho capito, che ha l'eco in più con il Galaxy Saturn e non ce l'ha. O cosa? Il mio ce l'ha l'eco. Il mio c'ha porti sulla levetta e c'è l'eco dall'apparato. Però non lo uso mai, quello l'ha fatto, c'è quello del microfono che è più bello. Ho capito. Oia! Mimmi, sono arrivato un messaggio che sta. Luca! Anche Luca va e viene, la propagazione non è costante. E Luca sta sempre facendo. Luca! Con questa va bene la radio. Il presidente. Il microfono si mette a prendere. Presidente, le cambi bene, mi ascolti? Sì, ho detto bene, stai andando bene, secondo me. Se la radio è buona, sì, vai bene. Ho capito. Come mezzo gai? Dai, io vi lascio, vado a fare da mangiare al cane e poi lo porto in giunta. Ci sentiamo. Ciao, vai. Ma i cucini, perché anche la cena? Sì, gli faccio la cena a parte a lui. Il cucino gli faccio un petto di pollo con la pasta senza sale e in più gli metto un pugno o due pugni di crocchette di quelle della trainer. Ho capito, no, per sapere, perché noi non ce la faremo mai con 10 cani, sarebbe impossibile cucinare per tutti. Cosa vi date voi? Roba secca, mangime secco, tipo crocchette e basta? No, vabbè, crocchette, e poi quando mangiamo due cose le diamo, due avanti di scarti, poi come si chiama, la buccia del formaggio, un pezzettino di pane, già glielo diamo. Gappa. Eppure ho letto che il pane mi fa male i cani, lo sai? L'ho letto in un coso su internet, non so se sia vero, ho detto male, già il veterinario lo sa queste cose, però io ho letto così, ho letto che... No, ma no, l'avrebbe non gliel'avrebbe dato. Vabbè che scrivono un po' di fesserie su internet. No, mamma lo sa, non gliene dà, queste cose si gli fanno male. A me gli puoi dare solo determinate cose perché è allergico, se non può mangiare roba gli fa male. Secondo cosa mangia lo fa diarrea, capito? Quindi devo dare sempre queste cose qua. Pasta pulita, le piacciono molto i gamberoni, quando li mangiamo qualche pezzo glielo do, ma non molto, glielo faccio assaggiare. E ghiotto di gamberoni. Ah, ho capito, un gamberoni noi non abbiamo mai provato. Sì, ma ne faccio assaggiare uno o due al massimo, proprio andando male, perché non voglio che li facciano male. Li mangio molto volentieri, quello anche... Il pesce però mangia solo pesce di quello buono, se ti lascia vite non è male. Ehi, va bene, aspetta, già, ti devo lasciare un attimo che sto sistemando la sfera dell'antenna, ci vediamo dopo. Non è parlato intanto, ciao, va Giacomino, Riccardo. Gaba gaba. Gaba gaba. C'ho fame. C'ho fame. Cosa offre la casa stasera? Sono un po' indisposto stasera. Ce n'è, ho voglia, ma sono indisposto. Per esempio che cosa c'è? Pollo, cosa c'è poi, ma? L'emozione, gli abbracci con i colleghi a bordo, una ricca. Dove risponde? Boh, lo so, pollo, poi boh. Già ce n'è. Un po' di crocchette, Luca. No, non le mangio di queste, sono senza denti, fra. Se mi rimasti che G2 andava bene, allora li mangio. Cos'è, Luca? Ah, Giudito, se mi rimasti che G2 li mangio. No, non c'ho denti, Luca. Ah, sai, se mi indui. Io via. Ui, tagliata e uscio. Allora buona. Ma le lenti, no? Perché filmi. Infatti. Lo senti a Franco, Riccardi? Sì che lo sento, lo saluto, ciao Franco. Ciao Riccardo, se non sbaglio. No, non sbagli. Dai, sei un po' bassino, in mezzo al QRM. Cosa? Sono in mezzo al QRM, ma come faccio? Cappa. Avanti Vanni. Luca. Yes. Ma il segnale da te è sempre lo stesso, adesso quando ti arrivo? Vabbè, c'ho lo switch è un po' secco, dai, segnale 9, sì. Ah, bene. E invece a casa, che siamo vicini, di 9.30 o 9.20, boh. No, io sono a casa da mamma, al monte. Ah, non sei a casa lì vicino a dove sto io da nonna? Sì, sono qua al monte, sì. Stasera ero da 25, lì alla Teodosia. Ah, ho capito. E però non mi hai sentito perdermi il controllo lì. Vabbè, mi stavo preparando che dovevo rientrare qua, dai, non lo so. Vabbè, lascia perdere. Quando sei di nuovo lì, mi senti, se no scialla. Che appazza. Computer, cioè il sistema digitale, Roma 2, Roma, dunque, lascia pure la scuola. Sì, ma mi pare che sia un modo da non fare risultato. Roma, la Roma 1 non andava lì. Intanto che il Roma 2 ti date il Roma 4. Basta che ci sia scritto Roma, poi per te va bene. Buonasera. Ehi, ciao Tino, ben ascoltato. Bene, bene, bene. Combinando. Facendo. Sì, deve essere qualche serie, il sistema del servizio perché siamo registrati, ma se usassi il culo nostro non l'hanno mai visto, ma che ultimamente mi interesso di roba registrata, da me non è comprendo il culo, quindi non so, ma è anche una stazione del culo. Ah sì, l'ho visto anch'io quello lì. Sì, ho provato a ascoltare il canale 10, meno male il canale 10 e tutto, però non lo ascolti a nessuno. È perché se dice che è Roma 1, Roma 2, Roma chi è la Roma che sta ascoltando, quindi tu ascolti a Roma, ecco perché non ascolti, mentre invece tu vai nelle bande dove c'è, che ne so, nei 28 MHz oppure nei 7006 e così, allora sì che senti. La M non la senti per niente qua. Non c'è la Sardegna, non ce l'hai, non c'è allora. Ma guarda, ho guardato chi ti sta. Si va a vedere, vabbè, le chi ti sta, quindi si va a vedere tutti, si va a vedere tutti i varati di un telefono e insomma, però naturalmente se sono inserito. Ok. No, vabbè, è diverso Vanni, io l'ho avuto quello disinstallato, cioè vado ogni tanto così a sentire un po', ma più che altro serve per ascoltare i radioamatori, se non hai possibilità di sentirlo molte volte la stazione che emette questa cosa qua fa sì che tu l'ascolti, capito? Che tu non vuole un telefono, non è che ascolti, da qualche ragione, che via, quello che vuole si apre sempre su internet, l'hanno fatto pure quello con chiuso, magari l'hanno ampliato, l'hanno fatto, non è sempre il sistema di stare con chiuso, anche a chi. Vabbè, con una cosa te, però lì non ci puoi parlare, puoi ascoltare, capito? E invece con Roma, Rodrigo, ti vuoi parlare già? No, lì a Roma 1 no, ascolti più che altro, vedi i segnali quando ti arrivano a te, capisci? Praticamente è come che io ricevo questi segnali qua e li mando in Alta Italia, li mando, però sono quelli locali, quelli radiomatoriali, e tu ascolti lì, capito? Queste cose vanno sempre in linea, si sa che sì, è un sistema, siccome anche il microfono, tu lo digli, ti colleghi, sai che l'ha fatto, è un ingegnere della MISA, non lo so come si chiama MISA, a forse in rete chi tu dico che c'è la UCI, capisci? Pronto a mangiare, quindi tu ti puoi collegare direttamente della rete che ti lancia il sistema, che non deve essere collegato a UCI, se no va a. Ehi, ho capito, poi il trilancio lo fa. Ho capito, però con CBCAL che tu ci puoi anche parlare, con questo sistema qua invece no, capito? Vannino, vai a mangiare, vai che è pronto. Vai Franco. Vai Franco, se ne va. Sì, se funziona una certa cosa, un sistema di incanto su internet, poi che ti permette di proprietà, no, c'è stato il sistema, non ti può permettere di proprietà, perché ci sono anche le persone che vanno, non si fa, la rissa, ma non puoi, mica puoi entrare a parlare le bandere della realtà, anche se, capo là, ciao, buonanotte, buon pranzo, buona cena e a felice, ciao. Allora volevi chiedere che arrangiamenti, che era tutto sul campanello su mente, è pagissimo, sono bisogno. E niente. Vabbè, è un tipo CBTAC, però lo puoi fare già in onda, come te i danni, è ovvio, no? È solo in ascolto. E arrivi in diretta uno, prosci. Sì, fra, molte volte io l'ho usato in ascolto perché con la radio per dire non riuscivo a sentire, andavo alla frequenza dove c'è. c'era la radio, e lo sentivo. È capitato anche che io, una determinata frequenza, ho fatto anche un fischio per vedere se mi sentivo, e mi sono sentito. Come l'hai sentito? In questo posto? E da quale frequenza si è andato? Fra, ti ho detto, ma la frequenza dell'ematoriale, stavo ascoltando, capito? Ah, ho capito, sì. È bello lì, come coso, senti tutto il canale 45, senti, tutte le frequenze radioamatoriali, tutto senti, e poi la 27 qua, in Sardegna. Capo, ma tu cosa hai importato? Roma 1? Ma io ho importato Roma 2, però mi ha dato Roma 4. Vedi, prima Roma 4 non c'era, vuol dire che... perché mi sembra che ho dato una frequenza anche io a Claudio, però non c'era la M, adesso non mi ricordo sinceramente. Adesso provo. Cosa hai cercato tu? Cosa hai importato nel computer? Allora, io ho scritto Roma 2 SDR. No, forse non c'è più di aspettantino, lo sta accendendo, faccio da... vediamo un pochino. Prima curiosità, adesso sono nuovamente con il microfono sopra la radio, aspetta un attimino. Bene, adesso invece ce l'ho, diciamo, sopra il tavolo, diciamo. Senti un innesco, vero? Sì. Ma che cacchio è successo, boh. Che strano. C'è una trombetta. Vabbè, così invece no, vero? No, così no. Vuol dire che questo microfono funziona così, cosa vuoi che dica? Secondo dove lo metti? Ma è capitato che me l'ha controllato Antonio, funzionava bene dove assolutamente lo mettevo. Mi ha avvisato Luca, ma tu ora io non innesco, di nuovo. No, adesso non l'ho sentito. No, adesso ce l'ho sopra la radio. Sto parlando a braccio steso, diciamo, quindi anche lontano. Beh, prova a fargli un cambiamento di massa con il microfono alla radio. Già fatto, già provate, già voi lascia perdere. Questa radio, se tu li tronchi a voi massa dal microfono alla radio, se ne va importante. E poi non ho più la recezione, capito? Così mi faceva a me questo che sto modulando adesso, il K, con MC60. Poi è stato fatto un cavetto, che me l'ha detto Claudio, me l'ha fatto anche Claudio, me l'ha fatto, un cavetto dal jack del baracchino al jack del microfono, e non me l'ha fatto più. Lo so, abbiamo coperto noi quelle masse. Pure te lo facevamo all'MC60 all'interno della spirale. Sì, vabbè, però qua è differente la cosa. Capo, io non lo so allora. No, sono senza connessione ancora, tu, che strano. Vabbè, aspetto, faccio un rilancio. Come senza connessione? Cos'è? Chiusa per l'anno? No, ma sicuramente senza segnale, poco segnale. Aspetta, un rilancio. Allora. Facciamo Roma RDS, vediamo cosa succede. Allora RDS 100% grande successo, no? Allora facciamo così RDS Roma. No, ma tu cosa hai scritto nella ricerca di Google? Allora, nella ricerca di Google ho scritto Roma 2, Roma 2, India Blosis, eccolo qua, SDR, poi quando ti dà la schermata, che scacci ti dà la schermata, vedi, c'è scritto Roma 4, SDR, Station, schiaccia lì. Ah, sì. No, perché poi qua mi dice anche si vede Roma CDR oppure Roma 2, vediamo quella 4 che stai dicendo tu, cos'è? Sì. Vedi che mi sembra che c'è solo USB, hai visto? Come solo USB? Ah no, c'è anche, no, non volevi cliccare. Sì, e qua c'è un sacco di attività. Cavolo se c'è attività! Poi vedi che tu guardi, sono gli 80 metri, 40, gli 11, 20, 27, i 70, 2 metri. Esatto, ci sono tutte sotto a scegliare. Vedi, 80, 40, 11, 20, 20, un altro, non vedo bene, 70 metri. Vedi? Adesso se tu metti, aspetta un attimo. Se tu per dire metti la frequenza che tu stai vedendo e provi a fischiare, può darsi che se arrivi a Roma e ti senti nel computer, capito? Sì, sì, ci ho provato stasera, però vabbè, su questa non ci ho provato, però sulla M ci ho provato e non fa niente. Aspetta, lascia vedere. Bianche che stanno salendo, quella è tutta tramite il cursore che hai quello giallo, ti posizioni lì e ascolti la frequenza che vuoi, capito? Non c'è bisogno di impostarla. Sì, però lo so, infatti per la grafica, il grafico lo puoi fare anche diverso, lo puoi fare di due nudi, tre nudi, no? Capo. Sì, infatti, allora c'è sotto il cervello grande e piccolo, sì. No, allora è meglio quello di mezzo, che è più accessibile, dai. Sì, è centrale, è bianco, quello lì. Lì, quando entra qualcuno fa il coso grosso lì, si alza una piramide. Esatto. Bene. Vabbè, ma ti ripeto, se vai nella frequenza, vabbè non questa che c'è scritta, però un'altra anche, diciamo che se arrivi lì ti senti anche nel computer. Io ci ho provato tempo fa e sono riuscito. Mi senti? Ma se lasci la portante inserita qua non riesco a sentire, devo ascoltare uno e l'altro. Capo, sentito l'hai? No, provo a farlo, provo se c'è la portante qua. Adesso ti faccio sentire cosa, questa frequenza qua, guarda. Ma stai fischiando? Fischiato che ho sentito, Certo, c'è uno che sta anche fischiando. Quello sto dicendo, io l'ho sentito pure, pensavo che eri tu. No, non ero io, no, era altra gente. Aspetta che provo io. Nulla? Non hai sentito? No, niente, nulla. C'è anche il filtro, Non ti capisco qua. Ho detto, c'ha anche i filtri, Sì, lo so, vabbè, ma diciamo che chi fa attività, chi ascolta, insomma, se lo usa, a me non mi interessa più adesso, però giusto per provare così. fagli subito un gol. Però sai cos'è? Che a volte su 40 metri è comodo, perché quando ascolti il radio amatoriale, se ascolti solo lì è bello, perché magari stai parlando qua e ascolti là, ascolti, ed è diverso, senza antenna, senza niente. Allora, praticamente questo qua sta mettendo online quello che lui sente, capito? E tu stai giocando con la tua passione. Beh, che strano questo cacchio di microfono, dove l'ha preso adesso? Che cosa gli è preso? Solo perché l'ho fatto uscire. Sono entrato in quel 27555 e c'era Macaluso, riso che ha risato. Ho ascoltato anche stamattina, ho fatto un po' di collegamenti così, ma all'imbrenso, sto provando un amplificatore, ma ho visto che non va. Un amplificatore grande che ho preso da Walter per prova, per vedere se funzionava ancora, niente, non no. Praticamente sto uscendo come quando esco con il 747, quindi ti puoi immaginare, solo che è una valigia questo, è pesantissimo, è grande, non so se lo conosci, il Galaxy 1000. Galaxy 1000? Non ce l'ho presente. È un kilowatt buono, sia le valvole buone, però queste secondo me le valvole sono esaurite come... vabbè. Vabbè, se vecchio è ovvio, cos'è, roba che vintage, no? Sì, c'è un vintage e poi c'è anche un altro 507 che dovrebbe dare circa, avevo credo 200 watt, però non li toglie fuori. Praticamente sono due barragioni che stanno funzionando come quando sto parlando adesso, ecco. Quindi ho speranti forse un po' anche più bassi, quindi non vanno, Ecco. Vabbè, però sono, se le valvole magari le puoi trovare. Ho visto che c'è una bassa gamma Fusaro lì in esposizione, magari c'ha tutti i tipi di valvole lui dovrebbe avere. Allora, diciamo la verità, che non mi interessa né comprare né niente, ma anche se fosse stato un regalo, sono 5 valvole, falle a 35-40 euro l'una, non so quanto ti possa convenire aggiustarlo, ecco, poi tieni conto anche che consuma un sacco di corrente, era giusto così, giusto perché l'ho visto, ecco, ma sono pronto via e vedo se funziona, ho detto sì, prendilo, fammi sapere se funziona, capito niente di che, ma è giusto per prova, no? Non mi interessa averlo. Allora no, e poi capita che costano così, sono 5 valvole, sono dinanzi, è nuda. Infatti, niente, io ho trovato quello, ne aveva due valvole, quello a, come si chiama, della Lemme, che funziona bene, ho visto che se l'ho aggiunto arrivava a Santero 3 qua, e adesso arriva 9, quindi sta spingendo, non è che non sta spingendo, perlomeno la mia stazione, è che a me invece mi saturava, se non avessi saturato stavo erogando 180 watt, capito? Sì, quello lì a me mi arrivava all'inizio, sempre mi arrivava segnale 1, massimo 2, qualche volta mi arrivava radio proprio quasi zero, ma voce non la tirava, non so chiamare anche, ma c'è anche arrivare a segnale 5, una bella radio, con una bella radio anche. Ma tieni presente che è a metà potenza, perché non può non può mettere la frutta perché l'antenna non è in accordo. Tu immaginati, aumenta quasi il loop, quindi è come che sta usando 70-80 watt, capito? Sì. Poi deve essere in qualche posizione brutta anche lui, dovrebbe essere, non è che sia tanto favorevole qua. Magari lì a voi a Sassari è diverso. Ma non so dove abita, capito, non te lo so dire. Però ho migliorato tantissimo, quando l'ho provato, ho detto caspita, cioè, se avesse reso così anche a me, magari in lontananza andava bene, solo che sinceramente noi siamo molto vicini, magari crea questo fatto di saturazione, poi il segnale non è che incrementava, hai capito? Invece lui sta funzionando bene, ah, sono contento, dai, almeno ha fatto una spesa buona, diciamo. Quello sì. Aspetta, che? Ok. Si è scaldato e se ne è andato quasi a sopra, a 100 se ne è andato. Bassa. Sì. No, io questa mattina l'ho provato, guarda, mi segnava 400, ma secondo me non le sta volando per niente, perché come segnale addirittura ho fatto un collegamento a Palermo, questo come complimenti 9.30, me ne vado a 7, 9.30, non ci credo, no, veramente crisi, 9.30, complimenti, bella radio, quanta potenza, la favola. Poi abbiamo fatto delle prove con Vannino in un'altra frequenza e li ho provati e tre. E diciamo che sta andando bene questo, quindi non ho, il migliore tra i due, tra i tre è questo. L'altra notte io in Francia, non so dove era, ma in Francia, ma non qua in Corsica, sono scritto, ce l'ho, 9.20 mi ha dato quello lì, invece alla Spagna 9.30. Sì, va bene, insomma, già va bene, non c'è propagazione, stamattina poi, insomma, c'era mezzo mondo collegando, però poi sono più sempre iniziano a chiamarti, tra una cosa e l'altra, e uno si sovraccollava con l'altro, quindi non capivi cosa stavamo dicendo. Ma noi non eravamo in AM, eravamo in USB, eravamo, ma ti dava una belletta, ti dava 100, 110, mi stava tirando questa radio, tutta la radio mi stava lineare, ma stava tirando una belletta. Quando è lui va bene. Grazie, ne poco niente, fa vedere il rotta in oga. Ogni tanto se ne faccia uno, o è un FM, o è USB, oppure entra qua a sopravvolare. Sì, vabbè, lascia fare, si divertono così. Per carità, bisogna contare in oga, via. Per carità, via. Quando vai, via. Come fanno a mettere la portante con lo stesso segnale che tu entri a modulare? Lasciali provare, può essere anche una bella soddisfazione se riescono a sovramodularmi, non è che per loro però. A noi non può sì. Vabbè, ma non si provano. Se provano a me, a te, parlando di noi tu, allora siamo fregati. Vabbè, però ogni tanto c'è sempre qualcuno che vuole provarci per vedere se magari anche con qualche, che ne so, con qualche lineare, per vedere un pochino se riesce a fare quello. E allora, sì, vabbè, non c'è altro da fare. Infatti io quando vedo così, ma qua entro, lunga. Non mi piace neanche, perché magari a te non ti fa niente, poi a un altro non te lo fa ascoltare, capito? Ah beh, sì, quello sì. Cosa vuoi farci? Lasciali fare, se si divertono così, insomma, è il loro gioco. Va bene. E allora ti? Da domani si lavora, sì? Sì, da domani si riprende nuovamente. Vabbè, sono già un mesetto buono questo che ho ripreso, quindi diciamo che abbiamo già preso il pieno ritmo, adesso bisogna vedere se si sbloccano gli altri, perché dobbiamo fare un lavoro anche a dura, però se non ci portano i tubi siamo, diciamo, legati a loro, capito? Quindi bisogna un po' aspettare, nel frattempo stiamo temporeggiando, facendo lavoretti, piccoli lavoretti un po' lì a Porto Torres, dove c'è la Rosa dei Venti, cos'è il ristorante, pizzeria, se non mi ricordo. Gli ho fatto piazzare, adesso devo andare a fare uno scavo per vedere la fognatura in un'altra casa di vicino, diciamo. E così, stiamo avanti, grazie a Dio stiamo lavorando, se no è brutto. Ma la Rosa dei Venti è quella avanti, quasi di fronte sulla destra, no, salendo a Sassari, di fronte al tabacchino? No, Porto Torres, per scendere al porto, diciamo, dove c'è il... io sono un poco pratico così, scendo al Porto Torres, prendo al porto, non la via principale, diciamo, quasi principale, non principale, quella che c'è la terra sulla destra, non quella principale, l'altra, la parallela, il ristorante rimane a sinistra. No, mi stavo confondendo io con un'altra cosa, no? Stavo confondendo, no. C'hai ragione, ho capito. Adesso vabbè, domani vediamo cosa fare, perché c'è un'altra cosa che mi ha prodotto, però non so dove, devo andare domani mattina a vederlo. Ecco, è importante lavorare, poi del resto, almeno se sbagli durante la giornata anche, sei impegnato e non ti annui. Ah beh sì, perché sono stato, non per via del lavoro, cioè ci hanno bloccato, quindi sono a lavorare già, ce n'era da fare. Sono stato qua a casa bloccato per un determinato periodo, più di 40-50 giorni, e alla fine ti scocci, dai, non sai più cosa fare, sempre le solite cose, non riesci a fare niente di che, capito? Quindi sono un po' pesante. A me sta cominciando a mancarmi quell'uscita, per carità, io. Se mi fanno tornare indietro guai. No, non è così, perché un conto è non fare niente, però non hai né un reddito, né un'entrata, né niente, è solo dei pagamenti, quindi insomma viene dura. Il problema è che se non c'è un'entrata, se invece non fai niente, però sai che ogni mese hai il tuo, allora uno si gestisce diversamente, perché magari va a trovare un amico, va a bere una cosa al bar, fa un giro con la famiglia, tante altre cose, sapendo che però a fine mese la retribuzione c'è, capito, quindi è un'altra cosa. Per quello non mi posso lamentare, quello è, perché è troppo puntuale, quello non mi posso lamentare, quello già va bene, tutto quanto, solo che da noi, capito, dove vai? È tutto al bar è un casino andarci questo periodo. Prima almeno si usciva, si andava a fare la gita mercato, entravi in una pizzeria, andavi a una cosa all'altra, era diverso, mentre adesso non puoi andare da nessuna parte, ci vai ma devi stare sempre attento. Vabbè, io ho detto al bar, giusto perché sai, così facciamo perdere questo periodo qua, però insomma uno la scappatoia se la trova sempre, capito, visto che adesso ci hanno liberato. Ma dal 3 dice che si può uscire normale. Ma guarda, ti dirò la verità, che io Ma sarà, non ho visto nessun tipo di cambiamento dal 4, dal 3, dal 2, no, no. Io sono sempre uscito quando dovevo uscire, mi ha fatto sì la quarantena, nel senso che la prima volta addirittura mi ha fatto portare anche la spesa a casa, però ho visto che poi le cose le facevano come volevano loro, non come volevo io, allora preferivo andare a fare la spesa, facevo la spesa, rientravo a casa, mi igienizzavo, facevo quello che dovevo fare e basta. Però molte volte anche già da un mese a questa parte, scendendo a Porto Torres, vedo la gente che come se niente fosse, non è che correndo, passeggiando col cane, al parco con i bambini, forse non hanno capito niente, comunque sto a vedere. No, ma io stavo dicendo, dal 3 giugno, questo giugno che viene, ancora deve venire al 3, ce ne liberano tutto, non, neanche la mascherina, niente. E in più hanno, stanno liberando i, la gente si può spostare da regione a regione. Ma guarda, io non lo so, sinceramente, senti una campana, senti l'altra, io rimango della mia idea, poi... perché chi dice no no fidati, i contagi sono stati quello e quell'altro, io non so, magari è un'influenza un po' più particolare, però credo che sia un'influenza come le altre, perché ti prende la tachipirina, ti abbassa la febbre, tutto quanto. Poi si trova una persona che magari ha delle patologie più importanti, allora viene abbattuto, però non lo so, io sono un po' scettico su queste cose, ecco. Vabbè, vediamo cosa succede. Va bene Tino, vai, me ne vado giù, me ne vado a mangiare, ci sentiamo. Buon proseguo di serata, buon tutto e buon lavoro per domani. Via, ti ringrazio, niente, adesso mi sto un po' qua al PC, vedo un po' se entra qualche uno, se no anche io ritiro baracchi e baracchini, come si suol dire, spengo tutto e faccio altro. Va bene, ciao ciao, buon divertimento, buona serata anche a te. Cappa, ciao ciao Tino. Prima sono rientrato, quando mi hai chiamato prima ero impegnato, c'ero con degli amici, non potevo rispondere io. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, Alfa 21 a questa parte che vi sta chiamando in frequenza. Eccomi, ci siamo. Ma non lo so, guarda, ho visto su internet, aperto non c'è niente, ci sono mi pare 3 o 4 valvole, un circuito semplicissimo, niente di più. Quelli grossi? Sì, sono quelli blindati, quelli la mera, quelli sta dicendo. Registrato. C'è anche Riccardino, avanti Riccardino. Non sei uscito, chi è che è? Ciao a tutti, vorrei un controllo se posso. Sì, sta andando bene, con che cosa sei Riccardo? Con il Tornado e il Turner. Turner quale? Con l'Espander Civico c'è? Sì, positivo, Espander. No, ti ascolto bene, c'è anche Capri, aspetta, fai fare un rilancio a Capri, avanti Gianni, come l'ascolti a Riccardo? Sì, ciao Gianni, ben ascoltato, ciao anche a Claudio se è in ascolto anche lui, ciao Roberto, sì anche qua c'è QRM, a un certo punto ti hanno coperto i tedeschi, però ho capito parte del tuo commentario. Aspetta, scusate un attimino, io faccio un giro nel canale, cerchiamo un canale che c'è meno movimento, perché qua su 10 quando parla Gianni qualche segnale forte lo copre. Aspettate un attimino e vi ritorno sul 10. Tutto bene, al mare, questo fine settimana in camper, siamo andati in campeggio, e tu invece? Allora, sul 23 è libero, ti cadi 23. Sì, può essere greca anche per me.